in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa internazionale. Devo dire, comincia a essere un pochino più semplice trovare notizie che non sono strettamente legate alla pandemia, forse perché con un tipico fenomeno che vediamo succedere da sempre, siccome la pandemia in questo momento sta perdendo forza in Occidente, mentre la situazione è sempre più grave in Sud America, ma purtroppo siccome noi guardiamo molto a quello che ci è vicino e molto meno quello che ci è meno vicino, appunto c'è spazio per altre notizie. Però vorrei iniziare comunque dall'Europa e da un effetto del Covid, perché tutti naturalmente ricordiamo che prima dello scoppio dell'epidemia nei vari paesi, dall'Italia alla quale poi seguirono tutti gli altri paesi europei, c'erano tanti processi politici in corso. C'era naturalmente il negoziato con la Brexit, che è di fatto in stallo, ma c'era anche, lo ricorderete, la difficile situazione politica nell'Irlanda del Nord, perché le elezioni avevano sì sancito una forte prevalenza di un partito, ma era difficile fare una coalizione. Da qui l'analisi per Vox Europe, che tra l'altro vi segnalo da questa settimana ha una nuova veste, con approfondimenti e possibilità anche di mandare i propri contributi o le proprie opinioni. Jan Carson ha scritto questo articolo che si intitola "Il Covid-19 ribalta le alleanze politiche a Belfast", perché sebbene appunto a Belfast l'esperienza del virus sia stata molto più simile a quella della Repubblica d'Irlanda che a quella dell'Inghilterra o di Londra, i cittadini hanno dovuto seguire le regole del Regno Unito, perché quel pezzo di Irlanda, lo sappiamo, fa parte del Regno Unito. E secondo la scrittrice Jan Carson, al ritorno alla normalità l'esperienza avrà un impatto elettorale. Quindi vedete come comunque la pandemia, oltre all'emergenza sanitaria e alle conseguenze che probabilmente avrà su come vengono programmati i sistemi sanitari dei vari paesi, l'equilibrio tra eventualmente, come c'è già in tanti paesi ma anche da noi, una coabitazione tra pubblico e privato, e poi ci sono tutti gli effetti politici, quindi non strettamente sanitari. A proposito degli aiuti dall'Europa, che sapete sono stati annunciati sia dalla Commissione europea sia in, perché anche questo di fatto è un aiuto, comunque una reazione alla crisi, dalla Banca Centrale Europea con l'annuncio, l'impegno a continuare la politica di quantitative easing, cioè di acquisto di titoli di Stato. Su Deutsche Zeitung l'alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Borrell, ha detto che sapete che sta per iniziare il semestre di presidenza europea affidato alla Germania. L'Unione Europea funziona così, siccome appunto siamo una comunità di 27 stati, 26, e ogni sei mesi cambia la presidenza. Ci sono dei semestri in cui magari la presidenza non è particolarmente forte, per il semplice motivo che viene affidata a un paese che o economicamente o demograficamente non ha un grande peso o ha un peso minore rispetto agli altri. Combinazione, sta per iniziare il semestre di presidenza tedesco e ci sono molte aspettative. Dice Borrell: se Berlino non sostiene qualcosa, non succede nulla nell'Unione Europea. Un accordo tra Francia e Germania era necessario, ma da solo non basta. Devono convincere gli altri stati membri e questo è difficile perché hanno opinioni diverse. Il riferimento naturalmente è al Recovery Fund, mi raccomando fund, perché continuo a sentire dire found, che è il participio passato del verbo to find, e non c'entra niente con la parola fondo. Quindi questo Recovery Fund, che poi è stato anche ribattizzato Next Generation Fund, comunque è un sistema di aiuti che, sapete, deve essere approvato da tutti i paesi dell'Unione Europea e che quindi la maggior parte delle persone, degli osservatori, prevedono non potrà comunque, ammesso che venga appunto approvato, non potrà comunque diventare operativo prima della fine di questo anno o l'inizio del 2021. E naturalmente, lo dicevamo all'inizio, insomma, queste sono le settimane della fine delle restrizioni, dell'inizio delle fasi 1, 2, 3, a seconda di come vengono definite nei vari paesi. In Spagna è a partire dall'11 giugno, quindi da giovedì prossimo, che ci saranno tante novità, compreso il ritorno delle partite di calcio, il pallone post-coronavirus, così lo definisce il Pais, che per il suo settimanale, il Pais Semanal, ha fatto una lunga intervista a Leo Messi, che naturalmente gioca in Spagna, pur essendo di origini argentine, che ha raccontato un po' come ha vissuto questa pandemia, ha detto anche come si appresta ad affrontare il ritorno in campo, e poi ha anche parlato di tutto il suo impegno umanitario. Messi, per esempio, è ambasciatore dell'UNICEF e naturalmente in questi mesi ha cercato di dare una mano anche all'organizzazione, appunto, l'UNICEF, che è l'organizzazione che fa parte delle Nazioni Unite, che si occupa soprattutto dei bambini, dell'infanzia, con tutti i problemi, da quelli sanitari a quelli legati alla scuola, e anche in questa emergenza naturalmente ha messo in campo molti progetti. Un'altra novità riguardo alla Spagna, anche qui ne hanno parlato tutti i giornali spagnoli, è che invece dal 22 di giugno apriranno le frontiere della Spagna con la Francia e il Portogallo. Come sapete, questa questione delle frontiere aperte tra paesi ogni giorno, insomma, viene in qualche modo così rinnovata, ci sono notizie nuove tutti i giorni, questo intendevo, quindi magari da qui al 22 giugno, anche per quanto riguarda l'Italia, ci saranno delle novità. Sapete che, per esempio, al momento ci sono ancora alcuni problemi con le nostre frontiere con l'Austria, però vedremo, perché tutto dipende, lo sappiamo, dai dati giornalieri, ancora prima che settimanali, sull'evolversi dei contagi, del numero di decessi e anche naturalmente dei guariti. C'è una questione, dicevamo all'inizio, tra quelle lasciate un po' congelate apparentemente dalla pandemia, ed è quella di un eventuale nuovo, accordo di pace in Israele con naturalmente l'autorità palestinese. E Haaretz, che è uno dei quotidiani israeliani, progressista, e soprattutto ha una bella edizione in inglese, quindi non c'è bisogno appunto di conoscere l'ebraico, è consultabile anche online questa edizione. E per esempio questa settimana ha dato spazio a Davide Layani, che è capo di Yesha, l'organizzazione che rappresenta gli insediamenti ebraici in territorio palestinese, e ha espresso un parere molto duro verso Donald Trump, il presidente americano, e il suo consigliere politico, nonché genero perché è marito della figlia Ivanka, Jared Kushner. Non sono amici dello Stato di Israele, ha detto, perché la sicurezza e gli interessi degli insediamenti di Israele, in realtà, secondo Davide Layani, non sono veramente nei pensieri di Trump. A onor del vero, poi va detto che al piano soprattutto elaborato da Jared Kushner, presentato anche in Israele, ma anche negli Stati Uniti, prima dello scoppio della pandemia, si stava lavorando da molto tempo, di fatto da quando Trump si è insediato alla Casa Bianca, scegliendo appunto anche suo genero come un consigliere politico, in particolare per le questioni israeliane, perché Jared Kushner viene da una famiglia di fede ebraica. In realtà, poi, questo piano, annunciato appunto come una svolta, per ora non ha ricevuto una grande accoglienza, soprattutto da parte palestinese, assolutamente no, ma neanche da parte israeliana. Però, ripetiamo, di mezzo c'è stata la pandemia che ha colpito anche Israele, quindi vedremo se ci saranno novità nei prossimi giorni. A proposito di pandemia e di paese colpito, io ho detto Occidente, beh, c'è un paese, l'Australia, che a sua volta è stato colpito dalla pandemia, anche perché l'Australia ha dei flussi di scambi economici, ma anche culturali. Ci sono moltissimi cinesi che vanno a studiare in Australia con la Cina, e quindi naturalmente la possibilità di contagio, soprattutto all'inizio, era molto alta. E da qui la il diffondersi dell'epidemia anche in Australia, e i quotidiani australiani questa settimana hanno dato la notizia che l'Australia si prepara alla sua prima recessione in 29 anni, cioè una crescita negativa del PIL. E naturalmente la causa principale è la pandemia. I dati ufficiali mostrano che l'economia si è ridotta dello 0,3% nei primi 3 mesi dell'anno, Ci sono stati, oltre alla pandemia, lo ricorderete, anche gli effetti degli incendi, e quindi gli economisti si aspettano che alla fine di questo trimestre, cioè alla fine di giugno, perciò alla fine del semestre, per due trimestri consecutivi l'economia si contragga e quindi il paese entri tecnicamente in recessione. Un altro effetto della pandemia, e poi vi do due notizie che invece per fortuna non c'entrano con la pandemia, ve la cito da Financial Times, che ha, citando a sua volta dei dati di una società specializzata che si chiama PIX, ha spiegato come le vendite di opere d'arte di Christie's, Sotheby's e Philips durante il mese di maggio siano scese drasticamente, perché è vero che si possono fare le aste online, ma naturalmente quelle di persona non si sono svolte. E c'è stata anche una certa ritrosia comunque a partecipare alle aste anche in altre modalità. L'ultima segnalazione, appunto, è un articolo che trovate su Internazionale di questa settimana per tutti gli appassionati di fumetti, è tradotto dalle Figaro, si titola Il futuro di Metal Hurlant ci dà la notizia che a 15 anni dal suo ultimo numero tornerà in edicola questa storica rivista francese di fantascienza a fumetti. Su questa rivista hanno debuttato grandissimi artisti come Moebius e ora vedremo se ci sarà appunto una nuova generazione di artisti del fumetto che daranno nuova fama a questa storica rivista. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.